Taccuino di viaggio. Capitali Inca e città coloniali fondate dai conquistadores spagnoli. Il Perù vanta uno dei paesaggi più vari del Sud America. Le Ande, dove vivono gli indios che parlano ancora l'antica lingua quechua, il bacino amazzonico e la foresta pluviale che occupano metà del paese, deserti costieri e villaggi di pescatori. Panorami. Il Perù è composto da 25 regioni, alle quali si unisce la provincia di Lima, capitale del paese. Qui il Museo de Arte custodisce arredi coloniali e manufatti precolombiani. Il Museo Nacional de Antropología y Arqueología è noto per le mostre sul Perù preistorico. Nella chiesa di San Francisco si visitano le catacombe. Quella di Santo Domingo risale al 1500. Il sobborgo di Barranco è frequentato per i ristoranti e i concerti. A Miraflores si trovano i migliori negozi e locali notturni della città. Le spiagge, predilette dai surfisti, si affacciano sull'Oceano Pacifico. Arequipa è la città bianca, con edifici costruiti con una pietra vulcanica di colore chiaro. È circondata da spettacolari montagne, tra cui il vulcano El Misti. Ad Arequipa si visita il convento di Santa Catalina, uno degli edifici religiosi più belli del paese. Le case coloniali della città, come Casa Ricketts, oggi ospitano gallerie d'arte e musei. Da Arequipa partono le escursioni per la Valle del Colca, attraversando la Pampa Cañaguas, dove si ammirano i terrazzamenti di origine precolombiana ancora coltivati dagli indigeni Collaguas. Lungo il percorso per la Cruz del Condor si gode della vista spettacolare sul canyon più profondo del pianeta e si ammira il maestoso volo del Condor. Il Titicaca si trova ad oltre 3.800 metri d'altezza e rappresenta il lago navigabile più elevato della Terra. Da Puno, il porto principale, partono le traversate in barca verso le isole galleggianti degli Uros. Sono fatte con il giunco acquatico che questa popolazione intreccia con abilità millenaria e da cui prendono il nome le caratteristiche imbarcazioni del lago. La zona è nota anche per le enormi greggi di alpaca e lama e per le danze tradizionali. Il consiglio. Cusco è l'antica capitale dell'impero Inca. A est del centro cittadino si trovano le rovine del Tempio di Coricancha, che un tempo era coperto d'oro, e il Museo di Archeologia, le cui sale custodiscono gioielli, ceramiche, tessuti e mummie. Nelle vicinanze ci sono altri 4 siti di rovine. Cusco è circondata dalle vette della Cordigliera delle Ande, di oltre 6.000 metri. A ovest si estende Machu Picchu, spettacolare sito archeologico del continente, la città perduta degli Inca, da ammirare dall'alba al tramonto. Sospesa a 2.400 metri di altezza, è interamente costruita in pietra e comprende la zona urbana, con templi, palazzi, fontane, e la zona agricola, con vari tipi di terrazzamenti. Il segreto. Circa 600 anni fa, gli abitanti della regione arida di Nazca tracciarono sul terreno delle linee che, viste dall'alto, formano giganteschi geroglifici. Nessuno ha ancora scoperto per quale scopo, né come. Si può provare a risolvere il mistero sorvolandole. Cose da fare. Il trekking e l'alpinismo sono le attività più praticate sulle Ande durante la stagione secca, da maggio a settembre. Nei pressi di Cusco si fa rafting e gite in canoa. Le isole Ballestas, chiamate anche le Galapagos del Perù, sono popolate dai famosi bubis, uccelli marini, dai pellicani e dai pinguini. Qui si può nuotare e prendere il sole su spiagge isolate. Cose da mangiare. La cucina peruviana varia di regione in regione. Tra le specialità inca c'è il porcellino di India arrosto. Gli altri piatti tipici sono il lomo saltado, carne fritta con cipolle, il branzino marinato nel limone, spesso servito freddo con patate dolci, la sopa e la crolla, minestra speziata. La quinoa è una pianta alla base dell'alimentazione delle popolazioni andine. Per gli inca è la madre di tutti i semi. Bevanda nazionale del Perù è il pisco, brandy chiaro servito con bianco d'uovo, succo di limone e zucchero. Cosa mettere in valigia? Costume da bagno per un tuffo nell'oceano e per immergersi nelle acque termali delle sorgenti andine, insieme a indumenti pesanti per il trekking in montagna, non possono mancare. Se il proprio numero di scarpe poi supera il 43, è bene portarne un paio di scorta, perché in Perù non è sempre facile trovarne di così grandi. Ma ora non disfiamo i bagagli, perché la prossima settimana invertiamo la rotta e ripartiamo. Destinazione Isola di Cipro. Un saluto da Maria Chiara Grandis.